Questo mercoledì 7 dicembre i titoli di apertura sono quasi tutti dedicati a questa amara sorpresa, ha detto ieri Mario Monti, inevitabile, il salasso sulla benzina. Sulla benzina i primi rincari, così titola il Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera tutti gli aumenti, la benzina subito. Repubblica scatta la stangata sulla benzina. Per la Stampa erano a rischio gli stipendi, questa è la frase ieri del Premier da porta a porta a porta. Il Giornale, salasso su benzina e auto, per Libero benzina sul fuoco. Il Fatto Quotidiano titola Caro Monti, l'equità dov'è? Il Messaggero, benzina e gasolio subito più cari, mentre l'Unità, troppi sconti agli evasori. Questi alcuni dei titoli, ovviamente tutti i quotidiani si concentrano sulla manovra. Il Sole 24 Ore, vi segnalo, fa diverse pagine proprio di vademecum per i lettori, per chiarire tutti i dubbi, soprattutto sull'ICI, sulla casa, dunque il pacchetto casa, ma anche sulle pensioni, anche sulla benzina. Ma queste le vedremo tra poco. Prima voglio partire da un reportage di cui oggi parla Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera. È un reportage che per la verità è anticipato, nel senso che andrà in onda questa sera sul programma di Gianluigi Nuzzi sulla 7, dal titolo Gli Intoccabili. È un reportage a suo modo storico, perché per la prima volta che ha fatto questa trasmissione ha convinto un deputato ad armarsi di telecamera in maniera nascosta, ad andare all'interno del Parlamento, là dove i giornalisti non possono accedere, nelle zone dove ci sono solo i deputati, e registrare alcune conversazioni. E Gian Antonio Stella intanto racconta questo deputato traditore, così verrà subito additato, che cosa registra? Qui è solo tariffa, la tua quant'è? Eccola, la talpa nel suc degli onorevoli. Video shock sulla presunta compravendita di voti alla Camera. Tutto questo verrà messo in onda questa sera. Il deputato che, vabbè, queste cose furono già denunciate, Aldo Di Biagio, che racconta come un collega lo contattò per farlo rientrare nel PDL. O Antonio Razzi, che avrebbe contrattato la sua fiducia al governo Berlusconi chiedendo tra l'altro l'istituzione del consolato onorario di Lucerna, finito poi a un amico. E ancora una conversazione tra due gentiluomini, scrive Gian Antonio Stella, gentiluomini tra virgolette, ormai è tutta una tariffa, è solo tariffa, la tariffa tua quant'è? Al vostro buon cuore. No, no, la tariffa la devi fare tu, al vostro buon cuore. Questa è la conversazione tra due onorevoli. E un'altra, così piena di parolacce che dobbiamo chiedere scusa ai lettori, scrive Gian Antonio Stella. Si parla di vitalizi, due deputati. Ma riuscite a far tirare avanti questo governo? Ce la fate fino alla scadenza? Così pigli pure tu la pensione. Ora devi fare 4 anni, 6 mesi e un giorno, perciò fatti nu pocoli cazzi tua e non rompere più i coglioni, andiamo avanti, così anche tu. Ti manca un anno, no? Meno di un anno. E ti entra il vitalizio. Che cazzo te ne fotte, dico io. Tanto questi sono tutti malviventi. Questo è uno scambio, poi diventa anche più volgare tra due deputati. E conclude l'articolo Gian Antonio Stella, no. Io non può essere questo il Parlamento. Ci rifiutiamo di accettare che sia solo questo. Sarebbe una schifezza, un insulto alla democrazia, un oltraggio alla politica per bene, generosa, nobile, a tutti quelli a destra e a sinistra che ci credono sul serio. E allora buttateli fuori quei deputati insaziabili, interessati solo a se stessi. Fuori. E ricominciamo da capo. Questo è il reportage del servizio che andrà in onda questa sera sulla 7. A proposito di onorevoli e di deputati, voglio rimanere su questa storia di casta che racconta Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano, a pagina 6. L'onorevole agenda ci costerà 3 milioni di euro. Ebbene sì, è tutto pronto. 32.500 agende e agendine settimanali, formato scrivania e tascabili rigorosamente di colore blu col simbolo Camera dei Deputati, rigorosamente di rivestimento in pelle ovina, sono pronte a essere ordinate a Montecitorio. Spesa 3 milioni e 15 mila euro in 3 anni più IVA per un mattoncino di carta elegantemente addobbato. Adesso che Mario Monti presenta il conto, scrive Carlo Tecce, a Montecitorio fischiettano indifferenti. Spediti hanno pubblicato l'avviso di gara il 18 ottobre, il 2 dicembre si chiudono le iscrizioni, il 12 dicembre si aprono le buste, poi comincia l'asta al ribasso, nemmeno troppo visti i precedenti. L'agenda deve essere rigorosamente in pelle, secondo quanto previsto dall'articolo 4,4 del capitolato. Pelle ovina. Care pecore, rassegnatevi, non c'è scampo, vi aspettano anni luttuosi. Questo per le agendine della Camera che ci costeranno 3 milioni di euro. Un appalto triennale per i libretti foderati in pelle di pecora in arrivo in Parlamento. Ci fermiamo per 6 minuti. 24 mattino. 7:32 minuti, allora volete una bella agendina in pelle di pecora dei parlamentari? Iscrivetevi, magari ne avanzano un po' di quelle che stanno ordinando per 3 milioni di euro più IVA, e poi se siete fortunati potete averla. Intanto avete visto ieri il premier Mario Monti a Porta a Porta, ha parlato per mezz'ora, ha parlato di pensioni come la riforma che l'ha fatto più soffrire, ma ha anche detto questa in maniera candida questo rischio. Erano a rischio davvero gli stipendi statali, era a rischio una situazione con l'Italia che poteva piombare in una situazione greca. Ha anche detto, nel momento in cui, l'unico momento in cui ha parlato un po' così dell'aspetto umano, il motto di mia madre era stai alla larga dalla politica, ma a un certo punto è stata la politica a venire da me. E ha anche detto pochi margini Mario Monti per questa manovra, per modifiche in Parlamento, e soprattutto gli italiani capiranno. Insomma, sacrifici che gli italiani capiranno. Ieri il decreto è stato firmato dal capo dello Stato Giorgio Napolitano, che ha detto è stata così evitata la catastrofe. Sta di fatto che Dino Pesole oggi sul Sole 24 Ore fa un po' di calcoli su quelli che sono i saldi della manovra. Pareggio di bilancio da 34 miliardi, questo è il titolo che trovate a pagina 3. Dalla casa 11 miliardi di entrate, 13 miliardi di aumento dell'IVA. Dagli aerei privati 85 milioni. La manovra lorda complessiva per il pareggio di bilancio è del 2013 a quota 34,4 miliardi, comprensiva già dei 13,1 miliardi attesi dall'aumento di 2 punti dell'aliquote IVA del 10,21%, questo però è in programma il 1° settembre del 2012, dunque tra circa un anno. Si sale nel 2014 a 37,8 miliardi, questo si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della manovra. Il peso delle nuove entrate, beh, con ben 11 miliardi di nuove entrate, il pacchetto casa è la voce più consistente nella manovra Salva Italia. Un apporto non meno significativo è atteso anche dal rincaro delle accise dell'IVA sui carburanti. Eccolo qui, 4,8 miliardi del 2012 al netto del credito d'imposta per l'autotrasporto che vale 1 miliardo di euro. Quanto invece all'imposta di bollo sugli strumenti finanziari e sui capitali scudati, la stima della ragioneria è per un maggior gettito rispettivamente di 1,04 e 1,09 miliardi di euro nel 2012. Allora, a proposito, visto che l'ho citata, state per partire per il ponte? Oggi è l'ultimo giorno di lavoro e poi magari vi concedete 3 giorni di relax. Per chi è di Milano, visto che oggi è festa a Milano, magari siete già in viaggio e vi godete questo lungo ponte, beccatevi questo bel salasso sulla benzina che nelle pieghe della manovra è comparso ieri. Da oggi benzina e diesel più cari, a pagina 15 del Sole 24 Ore. Ieri Monti ha detto sono degli aumenti inevitabile anche per finanziare il trasporto pubblico locale. Dalla mezzanotte addio anche alle ultime lire. Tra l'altro qui c'è una vicenda quasi tragicomica che forse poi racconterò, che è avvenuta, una vicenda di cronaca, se c'è tempo la raccontiamo, in provincia di Genova. riguardo al fatto che Monti nel decreto ha dichiarato fuori corso, basta, dalla mezzanotte fuori corso le lire, le vecchie lire sono fuori corso. Avete un gruzzoletto di vecchie lire nascosto, magari che la nonna, che vi siete tenuti voi, che la nonna vi ha lasciato, sono fuori corso. Per quel che riguarda invece la benzina, un vero e proprio salasso. È aumentata l'accisa sulla benzina di colpo a 704,20 euro per 1000 litri, quella sul gasolio a 593,20 euro, quella sul GPL a 267,77 euro per 1000 chilogrammi. Vabbè, adesso queste sono cifre, magari sono numeri. E quello che conta è l'impatto sui prezzi. Aumenta la verde di quasi 10 centesimi al litro. Il gasolio di 13,6 centesimi. E poi sappiate che dall'anno prossimo e dal 1° gennaio 2013 sarà un ulteriore balzello sulla benzina e il gasolio di 0,5 euro per 1000 litri. Sempre lì, la benzina. Ne parleremo anche alle 8.20. Oggi sull'unità, pagina 3, la vignetta con di Staino, con Bobo e la figlia che dice aumentata di tanto la benzina, e Bobo, andremo in pensione tardi e a piedi. Benzina sul fuoco, questo è il titolo di prima pagina di Libero. E poi, poi c'è la questione del pacchetto casa, l'abbiamo detto. Ci sono tutti i calcoli che trovate a pagina 8 del Sole 24 Ore. Saverio Fossati e Gianni Trovati fanno i calcoli. In realtà, per quel che riguarda la prima casa, l'IMU, cioè la nuova imposta che sostituirà l'ICI, pesa meno dell'ICI. Nella legge delega per la riforma del catasto, procedura semplificata per gli aggiornamenti, trovate comunque tutte le tabelle. Il dato più significativo, raccontano Saverio Fossati e Gianni Trovati, è questo: mentre sulle seconde peserà molto di più, sulla prima casa la nuova IMU peserà meno della vecchia ICI, almeno visto che ritorna. La vecchia ICI pesa meno di quella che avevamo, un modo per accontentarsi, credo. Un appartamento tipo da 100 metri quadrati categoria catastale A3 pagherà in media 178 euro, cioè 26 in meno di quanto pagava prima che l'ICI sull'abitazione principale cadesse sotto i colpi delle esenzioni avviate da Prodi e completate dal governo Berlusconi. Dunque torna la vecchia ICI, ma sulla prima casa si pagherà qualcosa in meno rispetto a quando c'era. Avete visto invece che Porta a Porta, o meglio dopo Porta a Porta, avete girato su Ballarò a vedere il ministro Elsa Fornero, che questa volta non ha pianto nessuna lacrima, anzi ha parlato di accetta per le pensioni. Abbiamo usato l'accetta, ma la riforma è equa. Ha confermato che tra 6 anni ci sarà l'addio alle pensioni d'anzianità. Su questo tema delle pensioni c'è ovviamente molta tensione, molta rabbia. Per esempio, si evince dalle parole del leader dei pensionati della CGIL, intervistata da Luca Telese a pagina 4 del Fatto. Carla Cantone dice: guardi, io non ho pianto, francamente mi sono arrabbiata, anzi addirittura direi che mi sono incazzata quando ho visto questa riforma delle pensioni. Così i più poveri pagheranno 4 volte, e non parlatemi di tassa sul lusso, quello è un obolo ridicolo. Vogliamo davvero paragonare i 50-100 euro tolti a chi è già al limite della povertà coi 1000 euro tolti a chi ha macchine e barche di lusso? Cantone del sindacato SPI CGL, i pensionati di CGL, tra l'altro invita anche il Partito Democratico tuteli i suoi elettori, confermando che su questa manovra è soprattutto il centrosinistra che rischia di vedere scontentati i propri elettori. Ci sono anche alcune novità che affiorano ovviamente nella manovra man mano che la si studia. Intanto Marco Mobili racconta, pagina 12 del Sole, che i movimenti bancari saranno tracciati sempre più dal fisco. Si completa quello che viene definito il Grande Fratello. Contribuenti messi a nudo davanti al fisco. Col pacchetto antievasione del decreto Salva Italia, l'amministrazione finanziaria farà una vera e propria radiografia a tutti i cittadini. Oltre a conoscerne i guadagni con le dichiarazioni dei redditi e tranno molto le loro capacità di spesa con il redditometro, dal prossimo 1° gennaio il fisco avrà piena visione di tutti tutte le movimentazioni che interessano i rapporti intrattenuti con gli intermediari finanziari. Attenzione, cari cittadini. E tra l'altro è questa anche l'apertura del quotidiano Italia Oggi. Nudi di fronte al fisco. Dal 1 gennaio 2012 l'estratto conto sarà inviato in doppia copia al titolare del conto corrente e all'Agenzia delle Entrate. Quindi proprio così, nudi di fronte al fisco. Così si può sintetizzare l'effetto dell'articolo 11, secondo comma della manovra Monti, scrive Italia Oggi in prima pagina, quello dedicato proprio all'emersione della base imponibile. E questo per quel che riguarda la lotta al fisco, anche la lotta all'evasione fiscale, anche se qualcuno dice non si è fatto molto. Non si è fatto molto e si è rinvigorita la polemica sulla questione dell'ICI e la Chiesa. Oggi è il Fatto Quotidiano, dopo che ieri il Secolo XIX aveva messo in prima pagina questa frase di Mario Monti, che alla stampa estera, di fronte alla domanda l'ICI, l'esenzione di quelle che sono le strutture non a fini commerciali, cioè meglio a fini commerciali della Chiesa, e Mario Monti ha detto non ci abbiamo ancora pensato. Santa ICI, basta chiedere, così titola il Fatto a pagina 5 con il servizio di Marco Palombi, ma su questo interviene il direttore di Avvenire Marco Tarquinio in maniera molto dura con un editoriale dal titolo La vergogna dell'ICI in prima pagina di Avvenire. Scrive Tarquinio: c'è un fantasma che si aggira per l'Italia, il fantasma dell'ICI non pagata dalla Chiesa Cattolica sulle attività a fini di lucro che si svolgono all'ombra dei campanili. I fantasmi non esistono e questo in particolare è una pura invenzione. Nessuna legge stabilisce un simile privilegio. Le attività commerciali svolte da enti e realtà riconducibili alla Chiesa sono tenute a pagare l'ICI sugli immobili che le ospitano, tutte le altre imposte previste, esattamente come ogni attività commerciale. Gli immobili di proprietà di enti religiosi dati in affitto sono assoggettati all'ICI e alle altre forme di tassazione, come qualunque altro immobile dato in affitto. Un'infinità di volte abbiamo spiegato che se qualcuno cercasse di non pagare il dovuto su attività a fini di lucro riconducibile alla Chiesa, violerebbe la legge, meriterebbe di essere sanzionato, i comuni hanno i mezzi per farlo. Un'infinità di volte abbiamo chiarito che le esenzioni previste per le attività solidali e culturali svolte senza l'obiettivo di guadagnarci riguardano non solo la Chiesa, ma ogni altra religione che abbia intese con lo Stato italiano. E poi conclude Tarquinio: chi fa questa campagna non sopporta l'idea che ci sia un altro modo di usare strumenti e beni, vorrebbero riuscire a tassare la solidarietà, facendo passare l'idea che sia un business, un losco affare, una vergogna, vogliono farlo nel momento in cui la crisi fa più male ai poveri, ai deboli, agli emarginati. Sono militanti del partito radicale, politicanti male ispirati e peggio intenzionati. Battono e ribattono sullo stesso falso tasto, convinti che così una menzogna diventi verità. Ma una menzogna è solo una menzogna. È questa la vergogna dell'ICI. Insomma, si riapre questa polemica sull'ICI, l'esenzione dell'ICI di cui usufruisce non solo la Chiesa Cattolica per alcune attività, ma anche altre associazioni, anche i sindacati, anche le altre, anche le altre confessioni religiose. Come si riapre la polemica sulla questione dei finanziamenti ai giornali di partito e cooperative. Oh, qui Mario Monti pare che voglia fare sul serio, meno male. Giornali di partito e diocesani, stop ai contributi pubblici, così titola pagina 7 La Stampa. Giacomo Galeazzi: i numeri della crisi impressionano tanto quelli della manovra, una manovra che taglia i fondi alle piccole testate giornalistiche. Lo stop ai contributi diretti all'editoria, la scure sta per abbattersi sui giornali di partito, su quelli delle cooperative e più in generale sulle pubblicazioni delle diocesi. Tanto che il Manifesto lo mette in apertura. È un giornale, è una cooperativa. Comma da cancellare, questo è il titolo del Manifesto, l'articolo 23, comma 3. Via i fondi per l'editoria. Il governo Monti completa l'opera di tre Monti, mentre sulla vendita delle frequenze televisive tutto tace, sistemati, pensionati e lavoratori, ora tocca ai giornali senza padrone. Così titola il Manifesto con due articoli a pagina 2 e 3, la critica a Monti per quello che succede nel taglio ai fondi per l'editoria. E vabbè, e poi c'è la politica su come reagisce su qualche inchiesta giudiziaria dopo il traffico. Come reagiranno i partiti politici? Questo è interessante capirlo, perché pare che ci siano dei mal di pancia abbastanza evidenti, sia trasversali all'interno del PDL e del PD, del Partito Democratico. Berlusconi al PDL ieri ha fatto l'ufficio di presidenza, in pratica ha detto siate responsabili, non bisogna essere compatti. All'interno del PD c'è già chi dice non lo voteremo, o comunque ci sono le divisioni, per esempio Fassina e Damiano aderiscono allo sciopero della CGIL, Marini e Gentiloni, sono quattro del PD che ho citato, dicono è una follia. E poi c'è il conflitto tra Bersani e Di Pietro, perché Di Pietro, che in un'intervista all'Unità conferma tutti i suoi distinguo, tutti i suoi fastidi nei confronti di questa manovra, intervistato da Claudia Fusani, dice sono deluso, bastava che i professori che compongono il governo avessero riletto gli editoriali in cui nelle scorse settimane avevano indicato le possibili misure per ottenere un risultato migliore, intendo più equo, non c'è equità, questa manovra è frutto di accordi sottobanco. Noi così non ci stiamo. E Bersani pare che abbia detto a Di Pietro: se non approvi questa manovra, vai per la tua strada. Dunque, questa anche possibile unità siglata a vasto per chi segue la politica tra Bersani, Vendola e Di Pietro pare sul punto di rompersi, perché Vendola ha già detto no a questa manovra, l'attaccata in tutti i modi, Di Pietro ora ne prende le distanze, allora nel centro-sinistra appunto si rischia di rompere questa alleanza. Dal punto di vista invece dell'inchiesta giudiziaria, beh, tornano i magistrati a richiedere la seconda volta l'arresto per l'onorevole Nicola Cosentino, che è stato anche sottosegretario all'economia, è considerato il referente dei casalesi, già una richiesta d'arresto, vi ricordate, era stata respinta dalla Camera, ha chiesto di nuovo l'arresto del parlamentare del Popolo della Libertà, lui dice chiarirò tutto, le accuse ora sono di violazione della normativa bancaria, reimpiego dei capitali, e per gli stessi reati tra l'altro è indagato un altro parlamentare del Popolo della Libertà, il presidente della provincia di Napoli Luigi Cesaro, per il quale però non è stato emesso né richiesto alcun provvedimento cautelare. Entro 30 giorni, la richiesta è arrivata alla Camera per quel che riguarda Nicola Cosentino, entro 30 giorni la Camera potrebbe ripronunciarsi, sarebbe il secondo caso, sulla richiesta di arresto nei confronti appunto di Cosentino. Repubblica mette anche tutta una serie di intercettazioni nelle carte. Problemi giudiziari anche per il direttore del TG1, Augusto Minzolini. È stato rinviato a giudizio l'accusa di peculato per avere utilizzato indebitamente, secondo la procura, 65.000 euro della carta di credito aziendale della RAI. Minzolini rinviato a giudizio, lui ha risposto con una nota, si è detto molto indignato, ha accusato anche l'ex direttore generale della RAI Masi, che l'ha definito un pusillanime, ha definito la società non la RAI, la società in generale, la società, siamo in una società di trogloditi, mi vogliono far fuori. Sta di fatto che pare, dal racconto di tutti i giornali, che i giorni per Minzolini da direttore al TG1 siano contati. Lunedì dovrebbe esserci un CDA straordinario della RAI, oggi c'è il Consiglio d'amministrazione, ma tecnicamente non parlerà di questo perché non era all'ordine del giorno, e lunedì il presidente della RAI, Garimberti, ha convocato un CDA straordinario per capire che succederà. Certo, la mossa dell'azienda di costituirsi parte civile nel processo non è un segnale che depone a favore del fatto che Augusto Minzolini possa rimanere, tanto che già si parla dei possibili successori. Su Repubblica si fanno i nomi del direttore della Stampa Mario Calabresi, del direttore del Messaggero Mario Orfeo, dell'ex direttore del TG1 e oggi editorialista La Stampa Marcello Sorgio, di Giulio Anselmi, presidente dell'ANSA. Insomma, già si fanno i nomi dei successori e si parla per Minzolini di una possibilità di essere inviato a New York o a Parigi come corrispondente. Sempre per rimanere nell'ambito dei processi, beh, ieri c'è stata la sentenza d'appello con assoluzione, a questo punto definitiva, per Alberto Stasi. Certo, c'è la Cassazione, ma la Cassazione non è un giudizio come il primo grado e l'appello. Nuova soluzione per Stasi, insomma, la domanda che si pone la gente, che si pone l'opinione pubblica è un altro grande delitto. Non so, abbiamo avuto il caso di Meredith Kercher di recente a Perugia, in cui tutti si chiedono: ma questa povera ragazza, chi l'ha uccisa? Rimarrà molto probabilmente un delitto irrisolto. Gli stessi avvocati di Alberto Stasi dicono: scusate, ma a questa domanda non dobbiamo rispondere noi. Noi dobbiamo rispondere del fatto che il nostro assistito per noi è innocente e lo abbiamo dimostrato. Garlasco: non c'è assassino, nuova soluzione per Stasi. La mamma di Rita Poggi, ovviamente, o meglio, scusate, la mamma di Chiara Poggi, Rita Poggi, dice: non mi arrendo, noi crediamo ancora nella giustizia. L'unica frase invece di Alberto Stasi dopo la sentenza è stata: è giusto così. Voglio raccontare, perché c'è un minuto, questa vicenda, giusto per sorridere. Ricordate che abbiamo detto Mario Monti in questo decreto ha sentenziato che la lira è fuori corso di colpo. E allora che è successo? Racconta Il Secolo XIX in prima pagina. C'è un droghiere che ha un bugigattolo in un paesino, San Giuliano Nuovo, nel basso Piemonte, che aveva accumulato 700 milioni di vecchie lire, perché lui non si fidava delle banche, li teneva in sacchi di juta a casa, nel materasso, sotto il materasso. Cioè, quando ha letto questa cosa ha detto: oddio, cosa faccio? Ha raccimolato tutti i soldi, 700 milioni di lire, è andato alla Banca d'Italia a Genova per cambiarli, si è presentata dalla commessa, ha detto: scusi, devo assolutamente cambiare questi soldi perché sono fuori corso da domani, sono 700 milioni di vecchie lire. Solo che cosa ha fatto? Imprudentemente si è portato anche una vecchia pistola che aveva. Nel momento in cui ha tirato fuori i soldi, quel gruzzolo davanti all'impiegato della Banca d'Italia, gli cade la pistola. A quel punto ovviamente scatta l'allarme e l'uomo viene arrestato. Ha spiegato: no, ma avevo la pistola perché avevo paura di essere rapinato, sono un commerciante. In banca con 700 milioni di lire, ma una pistola che gli cade dalla tasca nel momento in cui tira fuori i soldi, viene arrestato. E chissà, forse perderà anche tutto questo cambio di 700 milioni di lire che si teneva in sacchi di juta e sotto il materasso. Mario Monti, hai combinata grossa con questa di dichiarare la lira fuori corso. Ora ci fermiamo per il giornale radio.